Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. La Cosca Libri di Reggio Calabria si era infiltrata persino nei lavori del Palazzo di Giustizia in costruzione. E quanto emerge dall'operazione Cosmos della DDA e della DIA di Reggio, che svela come la cosca di 'Ndrangheta si sia infiltrata nel cantiere attraverso una raffinata forma di estorsione perpetrata in danno della Bentini S.p.A., dunque parte lesa, che stava effettuando i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia, perfezionando un disegno criminoso articolato nel 2005 e già individuato in altro procedimento penale. La Cosca Libri, piuttosto che ricorrere al classico metodo della mazzetta, ha realizzato, secondo gli inquirenti, l'attività di infiltrazione nell'attività economica mediante la stipula di contratti di fornitura di servizi, con cui ha imposto le proprie prestazioni, rese in regime di assoluto monopolio, nonché attraverso la somministrazione controllata di forza lavoro, con l'imposizione di operai, che si riveleranno rigorosamente assenti dal posto di lavoro per ragioni di salute, ma provvisti di idonea, lecita posizione contributiva, busta paga e relativo stipendio. E sotto quest'ultimo profilo di particolare rilievo in senso storico-criminale è il dato che una decina di operai assunti in blocco da una ditta subappaltante coinvolta nella realizzazione dei lavori del nuovo Palazzo di Giustizia sono risultati inseriti o comunque contigui alla famiglia Serraino di Cardeto, in passato in contrasto con quella dei libri di Cannavò, ma oggi protagonista di accordi. Quel che sconcerta è la valenza simbolica dell'estorsione, ai danni della società che sta realizzando la sede in cui dovrà essere amministrata la giustizia. Mentre viene edificata, sabotaggi e danneggiamenti ne minano la stessa fase esecutiva. Insomma, detto in altri termini, le cosche se ne fottono che lì sorgerà il nuovo tribunale, anzi, è una sfida troppo grande dimostrare che Reggio in tutta la Calabria l'unica legge che vale, l'unico tribunale che può fare giustizia sono loro, le cosche. Buona vita e a domani.